Il sosia di Alessio Liberati, letto da Alessio Liberati. RNA Messenger, SOS, SOS, SOS. Hackerato codice, naviga al buio, stop. Timoniere, sosia Spike, stop. Sosia virus, stop. Sosia Duomo, stop. Body Snatcher, inviato dall'Impero dell'Ordine Nuovo Mondo, Alfa, Beta, Gamma, Delta, Sigma, Sigma, SOS, Sarden, Save Our Souls, SOS, Sosia Virus, Sosia Vir, Uomo Virus, Uomo Virus.